Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera ai nostri ascoltatori, questa sera parliamo di noi, parliamo dell'Italia e parliamo dell'Italia, delle sue prospettive con Luigi Tivelli. Buonasera Tivelli. Buonasera dottor Fabi, buonasera. Luigi Tivelli, già consigliere parlamentare della Camera, civil servant al servizio di vari governi, autore di una ventina di libri. Ecco, il libro di cui parliamo questa sera è Reset Italia, scritto da Tivelli insieme a Giovanni Brauzzi, diplomatico in carriera con incarichi in varie parti del mondo. Ecco, Luigi Tivelli ha scritto Reset Italia e il sottotitolo, anzi i sottotitoli sono molto significativi: dalla grande crisi a un nuovo rinascimento, un progetto globale per il paese, per gli stati generali dell'Italia. Ecco, sono titoli un po' temerari, Tivelli, ma c'è veramente la possibilità di un nuovo rinascimento? Il paese avrebbe bisogno di un nuovo rinascimento, perché siamo reduci da più di 20 anni, praticamente il paese non cresce, il paese è quello che ha avuto la più bassa crescita tra i paesi OCSE, siamo reduci da, negli 8 anni della grande crisi, e il paese ha avuto una grande sofferenza, ci pare che però non sia diffusa tra le classi di governo e le classi politiche la consapevolezza di questo, e c'è bisogno di uno sforzo per una rinascita, e c'è bisogno di un progetto. Invece si continua a pensare solo al giorno dopo, a pensare a breve, e noi nel libro proviamo ad offrire un progetto e a chiedere che si offra un progetto al paese. Ecco, il libro è diviso in 3 parti, le ombre lunghe, quasi 80 pagine di ombre lunghe, le luci sono un po' meno, sono solo 50 pagine di luci, possiamo dire che sono la metà, quasi la metà delle ombre, poi c'è la terza parte, il progetto 2015-2025 per l'Italia, un progetto che ha anche alcuni punti di forza, si parte per esempio dal giubileo della misericordia indetto da Papa Francesco, ma poi tenendo conto anche della candidatura di Roma delle Olimpiadi, della presenza del G7, di Matera capitale della cultura, dei 150 anni di Roma capitale. Ecco, tanti elementi che possono essere un sostegno, un po' laterale, ma comunque un sostegno alla ripresa dell'Italia. Ma partiamo dalle ombre lunghe, sono ombre lunghe che indubbiamente ci sono: la politica, il ruolo del pubblico, la decadenza delle élite, la zavorra della corruzione. Si possono vincere, Tivelli? Possono vincere prima di tutto se ce n'è la consapevolezza, per esempio in questo paese c'è un peso eccessivo del settore pubblico a tutti i livelli, non c'è solo troppe leggi, troppa burocrazia, troppo settore pubblico a livello centrale, regionale e locale, e nel nostro progetto la prima linea di fondo è ridurre a tutti i livelli il peso del settore pubblico, delle troppe leggi, della troppa burocrazia, proprio fare una ridefinizione dei confini tra settore pubblico e settore privato, liberare le energie vitali della società. E non vediamo la consapevolezza di questo. Questo è chiaro, non è uno sforzo che si può fare in pochi mesi, richiede un'azione di anni. Se non si riduce questo peso eccessivo del settore pubblico, appunto a tutti i livelli, se non si riduce questa enorme pressione burocratica, questa enorme pressione del pubblico in tutti i sensi, se non si liberano le energie del settore privato, del settore del terzo settore della società, l'economia non può davvero ripartire con forza. E non vediamo questa consapevolezza. Noi chiediamo gli stati generali dell'Italia, perché questa deve essere la consapevolezza di tutte le classi dirigenti. Non è un problema che riguarda solo Renzi o certo, il governo, vanno coinvolte tutte le classi dirigenti, perché in questo ci sono responsabilità di tutti. Ecco, però senza dimenticare appunto i punti di forza, che è la parte seconda del libro, le luci, indubbiamente parlare delle difficoltà italiane lo facciamo forse fin troppo spesso, parlare male di noi stessi, però mettere in risalto invece anche i lati positivi è indubbiamente una realtà che va tenuta in considerazione e che va soprattutto valorizzata, e i lati positivi positivi ci sono, dal manifatturiero all'esportazione, allo scenario internazionale, al fatto della cultura, del turismo, del capitale umano ricco di potenziale, come dice in questo capitolo in cui si parla di investire nel capitale umano, e la collocazione dell'Italia all'interno dell'Europa, all'interno di una grande civiltà, è indubbiamente un lato positivo. Si investe poco sui lati positivi in Italia, Luigi Tivelli? Si investe poco. Io cito due aspetti, per esempio, perché i giovani sono un grande problema per il paese, ma potrebbero essere anche una grande risorsa. Abbiamo una disoccupazione giovanile sopra il 40%, abbiamo più di 3.000 giovani net che né studiano né lavorano, per altro verso sarebbe il capitale umano del paese. Non si investe sui giovani. E il governo non ha un progetto sui giovani, per i quali servirebbero, nel nostro progetto che presentiamo nella terza parte, presentiamo una serie di progetti straordinari per offrire opportunità di lavoro serio e produttivo ai giovani. Questo è un punto per far leva su quella che dovrebbe essere una risorsa fondamentale del paese, che riguarda anche il mezzogiorno. L'altro aspetto, il turismo, legato anche ai beni culturali. Il governo, qualche anno fa, era ministro Nudi, era ministro del turismo, aveva affidato a Boston Consulting l'idea di un piano pluriennale per il rilancio del turismo. Noi abbiamo letto questo progetto, abbiamo letto solo noi, un progetto dal quale venivano grandi benefici per il PIL, per l'occupazione, per lo sviluppo del turismo, e che era stato commissionato dal governo italiano. Ed è rimasto un foglio di carta, in pratica? È rimasto poi nel cassetto, cioè il governo lo può tirar fuori in ogni momento. E nel frattempo cos'è avvenuto? Che l'Italia, che fino a 20 anni fa circa era il primo paese del mondo per turismo, adesso è quinto e si appresta a diventare sesto, perché sarà superato anche dall'Inghilterra, mentre il turismo, sì, adesso si fanno tante lodi al fatto che questa è stata un'eccezionale stagione turistica, quella del 2015, però l'Italia, come contributo del turismo al PIL e come presenza graduatoria del turismo, in questi 20 anni è finita al quinto posto e si accinge a passare al sesto posto, mentre è il primo paese al mondo, come spieghiamo bene nel libro, per siti UNESCO. Ecco, l'Italia, quando ha di fronte delle grandi sfide, riesce anche a vincere, come ha dimostrato l'esperienza dell'Expo negli ultimi mesi, che con un grande richiamo fatto appunto a una realtà che l'Italia ha saputo costruire e ha saputo vincere. Ma concludiamo guardando a questi stati generali dell'Italia che voi proponete. Di che cosa si tratta? Si tratta di questo, perché non è giusto accusare Renzi dicendo che è un uomo solo al comando, eccetera. Se la crisi è arrivata a questo punto e se per 20 anni non c'è stata crescita, non è stata colpa solo dei governi, ma di tutte le classi dirigenti di questo paese, di quelle economiche, imprenditoriali, burocratiche, delle elite intellettuali che non hanno contribuito a produrre idee per lo sviluppo del paese. Allora noi invitiamo il governo a promuovere questi stati generali per coinvolgere tutti i rappresentanti delle classi dirigenti in uno sforzo di un'elaborazione di un progetto per il rilancio, il risanamento e lo sviluppo del paese. E diciamo, nei prossimi 10 anni ci sono una serie di appuntamenti, come dice lei giustamente, dottor Fabi, quando ha presente davanti a sé delle sfide, le sa raccogliere, come ha raccolto molto bene la sfida dell'Expo. Da qui allora molto probabilmente ci sono le Olimpiadi, sicuramente ci sarà il grande giubileo del 2025, ci sono altri appuntamenti per strada. Vogliamo questo itinerario di questo decennio, perché per un paese che in più di 20 anni ha perso ampiamente la strada della crescita, servono 5-10 anni per recuperare in modo forte la strada della crescita. Cosa fare per evitare che questi stati generali diventino la vecchia concertazione, mettersi attorno a un tavolo e ognuno tira la coperta dalla propria parte? Ovviamente bisognerebbe fargli precedere da un confronto adeguato, e bisognerebbe che in seno allo stesso governo in precedenza si uscisse dalla logica del giorno per giorno, dalla logica del tweet, perché con la tuttocrazia, con lo stare sul giorno per giorno, sul settimana per settimana, non si governa un paese. Per governare un paese c'è bisogno di una logica a medio termine, di progetti, e cominciare a offrire. Anche la prossima legge di stabilità potrebbe essere un'opportunità. Ho visto che De Rita sul Corriere della Sera scriveva, non a caso, De Rita, un uomo di grande intelligenza e di grande esperienza, facciamo precedere la nota di stabilità da un piccolo documento, qualcosa che mette insieme alcuni aspetti programmatici che possa assomigliare a quello che fu a suo tempo la nota aggiuntiva di La Malfa. Cominciare a ragionare in termini di La Malfa, cominciare a ragionare un po' in termini programmatici, per abituare anche i cittadini a pensare in una logica di progetto. Pensare in grande, questa. Grazie Luigi Tivelli. Pensare in grande, grazie, mi sembra questa un po' la filosofia del libro. Un libro che è anche una panoramica sulla realtà italiana, sui tanti problemi che abbiamo detto, ma anche sulle tante potenzialità, con la voglia e il coraggio di chi ha un'esperienza, in fondo, di una vita vissuta a fianco degli organismi istituzionali come Luigi Tivelli, di portare appunto questa esperienza per realizzare qualcosa di costruttivo. Ricordo il titolo: Reset Italia, edito da Guerrini e Associati. Sono 224 pagine per 18,50 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato. L'appuntamento con Economia in Pagina per sabato prossimo.